24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Viva la RAI, che fa crescere strani, viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi, viva la RAI, con il suo impero dice la RAI, soltanto il vero, viva la RAI, dimmi da quale parte stai. Allora, la domanda che tutti quanti ci dobbiamo fare è: chi si potrà comprare queste quote minoritarie di Rai Way? E allora io dico, se le potrà comprare il gruppo Mediaset con Berlusconi, e quindi noi abbiamo scoperto definitivamente l'accordo che hanno fatto Renzi e Berlusconi a Largo del Nazareno. È sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. Per il presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, virgolette, Renzi e Berlusconi, nel famoso incontro del Nazareno, hanno siglato un accordo segreto sulla svendita di Rai Way, le allora, torri. Non è nulla di vero, assolutamente. È una calunnia assoluta? Assolutamente vero. Da domani mattina i nostri legali faranno querela contro questo buffone. È la prima volta che dico buffone io, ma lui con questa dichiarazione si è fatto buffone. Voi. Viva la RAI, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Ora vedete voi, decidete voi, fate vobis. Il presidente della commissione vigilanza RAI, Fico, aveva detto a maggio, credo, c'è l'accordo, il patto del Nazareno perché Berlusconi si comprerà Rai Way. Gli ha detto Berlusconi, con tanto di avvocati, non mi risulta poi che sia mai partita la querela, non so, magari vorrei chiederlo a Fico, magari. Fate vobis! Il governo ferma Mediaset, Rai Way resti pubblica dopo l'offerta pubblica di acquisto di una controllata Mediaset e i Towers per comprarsi Rai Way. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute il sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone. Viva la RAI! Viva la RAI! Saluto subito il graditissimo ritorno di Vincino, il nostro grande Vincino. Tu non ce l'hai una torre, un ripetitore da vendere, qualcosa sul terrazzo? Niente. Già dato, già pagato, guarda. Hai pagato il canone RAI? No, ho pagato il canone RAI. L'hai pagato o no? Storia... Sì, certo che l'ho pagato. Allora... Ma questa storia delle torri del Rai Way, no? Rai Way. Rai Way, come cavolo si chiama, no? Vabbè. Io già sono stato condannato, sì. Ma come no? Quando li dovevano vendere nel 2000 e qualcosa, no? Sì. E poi dopo non le hanno più vendute, perché è da 15 anni che devono vendere queste cazzo di torri e non le vendono, no? Sì, bene, allora quando poi non le vendono più, allora io faccio 3 funzionari RAI regionali che dicono: cavolo, ora dobbiamo ridare i soldi indietro se non le vendono più, i soldi che siamo hai fatto una vignetta così. Le tangenti, no, che ci siamo presi, perfetto, no? Un presidente della RAI dice: ah, quello sono io, e mi ha denunciato. E chi è questo? Chi è questo presidente? Non lo pronuncio perché porta sfiga. No, non lo pronuncio perché porta sfiga, perché ha fregato 100. No. Sei stato condannato? E quanto ha pagato il foglio? 100.000 euro. Cioè, per una vignetta. Non era lui, non ci assomigliava. Ho capito, però vogliamo. Non sei tu, è un dirigente regionale siciliano, porca miseria, non c'entra niente con lui. Stai attento, che se dici che è un altro. No, se dici che è un altro, poi ti querela anche quell'altro. Adesso non svelare chi era. Comunque, no, questa non la sapevo, non la sapevi, è così. Di toccare un nervo scopertissimo. L'unica volta che ho perso è perché è una stronzata di Rai Way, guarda. non li sopporto questi qua. Sono da 20 anni che cercano di venderli. Finalmente quello vuole. Io questa vi giuro, aspetta! Fermati. Io questa non la sapevo. Cioè, ricapitoliamo. Sì. Vincino ha fatto una vignetta in che anno era? Nel 2000. Boh, vabbè. 2000. Sul foglio 99 2000, accusando per la mancata vendita delle torri di Rai Way. No, accusando, c'erano due che dicevano poveretti, ma ora dobbiamo ridare indietro i soldi della tangente. E uno di questi si è riconosciuto nell'allora presidente della Rai. Vabbè, lui e quello era pelato, quello là non aveva la barba e quello aveva la barba. Ho capito, ma siete stati condannati? Siete stati condannati a 100.000 euro. E chi li ha dato? Chi gli ha messi sti soldi? Il foglio, mica Giuliano, là, Giuliano Ferrara. Io non lo sapevo, fatemi salutare subito invece colui che oggi è il vice direttore di Panorama, edito da Mondadori, domani sarà Mondrizzoli, e trasmetterà da una torre Rai, vabbè, insomma, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno. Fa un po' di casino, ma insomma, posso dire una cosa? Io ogni volta che Vincino per me è un ma ogni volta che parla scopro che è stato condannato per qualche ma cosa. infatti noi qua abbiamo scoperto che è finito due volte al gabbio, è sempre più un mito, è finito due volte al gabbio, poi parli di Rai Way dicendo vabbè, ma è un tema che non lo toccherà Vincino, cosa vuoi che gliene freghi di Rai Way, ha dovuto pagare ha fatto condannare il foglio a 100.000 euro, ma gliel'avete dati? Sì, ovviamente Vincino. E certo, Vincino, gli avete dati sti soldi? In tutti i modi, guarda, ho usato tutti i trucchi, perché Santoro è andato e ha detto guarda, Vincino dice che non c'entra niente, non sei tu, non ti assomiglia per niente. Santoro, hai mandato Santoro? Sì, perché Santoro, andavano tutti intermediari di ogni genere. Ma non me ne fai, il foglio deve pagare. Tanti, il foglio deve pagare. Ecco, come gliel'avete portati? Quello che c'ha, 3 vitalizi, 6 stipendi, 7 pensioni, 7 cose, che pure ha preso questi soldi. Ma ce lo vuoi dire chi è sto? No. Ma tu Tortorella l'hai capito? Sì, lui l'ha capito. No, come l'hai capito? Dai, dimmi la lettera iniziale. Dimmi la lettera iniziale del cognome. Dai, la lettera iniziale. Dimmi, confessa la lettera. Quello sta ascoltando, l'hanno già svegliato e messo là. Che io pronunci quella lettera là per denunciarmi. Ma cosa c'entra ormai? È uno terribile, uno dei PC terribile, cattivissimo. Assolutamente. Vabbè, dai. No, vabbè, devo scoprirlo prima della fine della trasmissione. Adesso apriamo il Parlamento, dai. Saluto Lorenzo Nespoli, in redazione. Adesso vado a prendere un caffè. Lo affianchiamo subito alla Boschi e saluto anche Peter Vescapè. Subito anche lui affiancato al ministro Boschi che ci offre il caffè. Come avete capito c'è un Vincino con il dente un po' avvelenato per questa storia di Rai Way. Peraltro a quell'epoca la vendevano a 200 milioni di lire. Sì, però oggi siamo a 1,5 miliardi di euro, praticamente un affare pazzesco per la Rai. Però, tu che hai sempre criticato, criticone, sì. Adesso sono qui pronto a twittare, cosa ne pensi di Roberto Fico? Un cretino totale, no, ma perché, scusa, non ho capito, cioè, ma che cavolo c'è? Ma scusa, ha detto mesi fa. Ma cerca di venderla da 15 anni, cerca di vendere, ha trovato un compratore finalmente. Ha detto, c'è l'accordo, lo vuole vendere a Berlusconi. Non era nessun accordo di niente. Era proprio un'altra imbecillità totale. Difatti il Renzi ha detto che non era vero, non le vendono, non gli vogliono dare il coso. Qual è? È finito, non c'è più, è inutile che questi non capiscono niente, totalmente. Ma come niente? Ma scusa, ha detto li venderà a Berlusconi, Berlusconi gli ha detto buffone e poi Berlusconi se li vuol comprare. Ha detto li venderà a Berlusconi. Ma non ho capito, è un affare industriale, sono sul mercato. Ho capito, ma casualmente Berlusconi, vabbè. Niente, Tortorella, aiutami tu. Un altro in Italia che possono comprare torri. Un altro amico del Movimento 5 Stelle. Aspetta, Vincino, un altro amico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Tortorella. Beh, però dai, bisogna dire, stavolta ci aveva azzeccato un po' Fico. No, niente. Posso dire, ha perfettamente ragione Vincino. alla RAI il governo ha sottratto 150 milioni l'anno scorso e 80 milioni negli anni a venire, ed ha fatto benissimo, perché la RAI è una, è un'idrovora spaventosa. Deve trovare sui soldi per stare sul mercato e per mantenere un apparato che direi elefantiaco, a dir poco. Vendo dei pezzi. Sì, ho capito, ma no, ma Fico dice guardate che li venderà Berlusconi, e Berlusconi ha detto buffone. Sì, sì, ma lui ha detto il patto del Nazareno. L'accordo, l'accordo. La massoneria, eccetera, eccetera. No, la massoneria no, però insomma. Ma se no, me lo aggiungo, questo lo aggiungo io, per carità. Ma dico, qual è la paura? Che se Berlusconi si prende il gruppo Mediaset, acquista le antenne, non trasmette più niente, si fa il monopolio, decide tutto, tutto. Cosa decide? Non lo so. Trasmette le trasmissioni che tipo Vincino non lo manda più in onda, uno come Vincino. È una delle minchiate più grosse che abbia sentito. È come se semplifico in una maniera totale, ovviamente semplificando dico anche delle minchiate, è come se nel momento in cui lo Stato stabilisce che le ferrovie dello Stato non hanno più il monopolio, e quindi possono entrare operatori privati, e quindi può esserci Italo e tanti altri operatori che mettono i loro trenini sui binari italiani, improvvisamente le ferrovie dello Stato, che ovviamente hanno l'obbligo per legge di far girare tutti i treni del mondo sui loro binari, ad un certo punto vendono i binari, li compra Italo, sono veramente minchiate. Sì. E allora Italo avrà lo stesso identico obbligo di far girare tutti. Sì, ma l'accusa è: se tu controlli tutto quello che va in onda, puoi decidere il bello e il cattivo tempo, cioè la concentrazione di poteri. È la stessa stronzata vergognosa che si sta facendo passare in maniera indecorosa in questo paese del cazzo, perché si è svegliato Tortorella. È veramente indecoroso, perché la Mondadori pubblica libri di tutti, ok? Pubblica libri di D'Alema, di Franceschini, di autori di destra e di sinistra, senza censurare una virgola. Cosa fa? Si mette a controllare le pagine di quello che scrive Tizio e Caio, e poi qui siamo saltate la Mondadori, ma è così, è il paese in cui si fanno delle polemiche. C'è Umberto Eco, se ti sente Umberto Eco. Ci saranno forse, se ci sono problemi di come si dice, di trust, si obbligherà la Mondadori, nel momento in cui dovesse riuscire ad acquisire Rizzoli, a scendere sotto la quota che dovesse essere eventualmente Vabbè, però se la reazione, per tornare invece alla questione delle torri e Vincino, se il governo ha emanato una nota per dire il 51% deve rimanere pubblica, vuol dire che ci sarà, che vuol dire pubblico? Pubblico controllato dai partiti. Questa è un'altra questione, come la riforma della RAI, che adesso vuol mettere una fondazione, Renzi, come se le fondazioni non siano controllate dai partiti. Ma è ovvio. Però voglio dire, se hanno reagito così, ci sarà una qualche preoccupazione, Vincino, no? A dire. No, non c'è nessuna preoccupazione. Sì, la preoccupazione è questa qua, come dire, di titoli di giornali, queste stupidaggini qua, perché insomma, è una preoccupazione così. Sei più preoccupato tu per i 100.000 euro. Ma senti un po'. Lui è terrorizzato perché ora ha fatto questa cosa qua sui giudici, che finalmente c'è un poco di responsabilità civile. Dall'87 aspettavo. Io lo sapevo, avevo altri due. Altri. Che quelli quando sbagliano pagassero un poco. Porca miseria. Infatti ho detto. Il 50% di quello che fanno. Ho detto. Adesso Vincino e Tortorella, due amici del 5 Stelle e due amici dei giudici, e quindi l'altro tema sul quale ero sicuro Vincino sarebbe andata è questa cosa della responsabilità civile dei giudici. Tu che faresti a un giudice che sbaglia? Non lo so, Vincino. Cina, all'epoca là dell'impero Ming, se un giudice sbagliava e condannava a morte uno, ed era un errore, tagliavano la testa a lui. Andava così, nell'epoca Ming andava. Viva i Ming! Viva i Ming! È Tortorella, Vincino vuole tornare ai Ming in Cina. No, non voglio tornare, dicevo, andava così a quell'epoca. Vabbè, per caso comunque il nome di battesimo del presidente della RAI era Roberto? Ancora? Non ti rispondo su questo. Mamma mia, ragazzi! Sveglio là, dalle 3 di notte sveglio che aspetta questa parola. C'hai 6 avvocati messi in lato. No. Vabbè, e tu comunque... sai che cosa fanno gli avvocati nostri? Vogliono solo accordarsi. Voglio solo accordarsi. Andiamo a processo, glielo dico io, chiamatemi a testimoniare, non è lui, glielo dimostra. No. Cercano di accordare, gli avvocati dei giornali e anche di Panorama, lo sa Tortorella, cercano sempre di accordare. Lo so, Tortorella, comunque tu hai capito che hai capito chi era il presidente, vedi tu, hai una notizia in mano, fate vobis anche, non so. Ma... devi darmi il telefono di Vincino che devo... Sì, devi, dopo ti do il cellulare di Vincino che però non te lo dice perché ha paura delle intercettazioni, perché quello là ascolta, c'ha le antenne, ascolta. È sveglio, ascolta. Ma come glieli avete portati? Con un bonifico glieli avete fatti? 100.000 euro? Ma 100.000 sono... Non lo so quanto sono accordati poi dopo, no, forse si sono accordati meno. Ah, forse 50.000, 60.000. Non lo so, non lo voglio sapere. Sono solo arrabbiato che non mi hanno fatto andare a processo dove dimostravo che non era lui. Facevo questa foto. Ma se vi hanno condannato ci sarà il giudice, non l'avrà. Ma perché un cretino di un giudice? No! Allora scusami, tu prendi c'è un mio disegno con 50 persone dentro. Arrivi tu e dici quello sono io. Ah, ma che cazzo sei tu? Non sei fatto tu, no. Cioè, ognuno può prendere un mio disegno e dice ho capito Vincino, ma dai, ma se dai poi se dai il cretino al giudice, poi dopo magari si sente, dice ero io quel giudice e ricominciamo. È peggio che la Francia qua, assolutamente. ricominciamo alle 1-2 un dibattito, guarda. Vabbè. Tu c'è il debito, c'è l'ambasciatore, penso che sono tutti. Vabbè, allora dai, fatemi mettere ordine, andiamo al traffico che qui devo capire un attimo chi era questo presidente Rai e poi dopo ne parliamo. No, scherzo, dai, il traffico. 24 mattino. Ciao, buongiorno. Voglio dire una cosa a chi difende il questore e il prefetto di Roma. A Roma l'altro giorno con i tifosi del Feyenoord c'erano centinaia di venditori abusivi di birre. Ripeto, centinaia di venditori abusivi di birre che si sono arricchiti a vendere le birre a 5 euro e nessuno ha fatto un cazzo di niente. Ciao. Alessandro Milan, mi ricordi il mio Van Basten? Ti voglio con me, sei il mio Van Basten dell'informazione. Ah, questo è il mio messaggio di grande godimento. Ah, quando sento tutti questi fenomeni, Gino Paoli, tutti questi che sputano merda su tutti, ma quando tocca loro, oh, apriti cielo, ma è il commercialista che mi ha inculato. Caro Mila, se ci fosse un concorso per il più stupido, tu riusciresti a arrivare secondo, neanche primo. Milan, ti prego, fai stare zitto quel signor Vincino che è proprio un cretino. Noi stiamo andando al lavoro alle 6:30, 7 di mattina, siamo in mezzo al traffico e quello ci viene a dire che Gino Paoli non si tocca. Ma vergognati e abbi rispetto di chi le tasse le paga fino all'ultimo centesimo. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più. Una donna ad un impiego in banca. Vergognati Vincino, questa è la verità, vergogna. Di Gino Paoli stamattina. Beh, settimana scorsa che c'entra le segreteria telefonica e qualcuno che ha sentito che tu hai detto che un artista non si tocca. Vergogna. Ho detto che ti ha fatto pomiciare, ti ha fatto delle emozioni. Ti ha dato delle emozioni, ti ha fatto pomiciare da ragazzo. Meravigliose, delle cose stupende. Io farei un Ma allora, capito Tortorella? È da qui da una settimana che dice è un artista, mi ha fatto innamorare, mi ha fatto quindi non si... depresso, là, arrabbiato, ha rinunciato a fare dei concerti, arrabbiato. Io farei una cosa in una piazza, il cielo in una piazza, là, a una certa ora ci vediamo tutti quelli che Gesui Paoli, Gesui la canzone là la Bergore della cosa, capito, no? Tortorella, hai capito questi de sinistra anche Toscani è stato assolto, no? Sì, Toscani, perché ha detto che gli ubriaconi veneti. Quindi io potrei dire che i siciliani sono, oppure che i sì, puoi dire che ne so, piemontesi gianduiotti. No, io non lo dico perché Toscani Toscani è stato salvato, ma io non sarei salvato, posso dire. Ah, attenzione, Toscani sì e Tortorella no, vabbè, capito. E Gino Paoli, Gino Paoli come la vedi, Tortorella? No, Gino Paoli non mi piace la storia, non mi piace soprattutto che i giornali siano tutti, ho letto interviste nelle quali non gli si ripone nemmeno la domanda, scusi, gli avevano, ce li aveva i miliardi in Svizzera, gli avevano, gli aveva. Ma lui dice non è reato, non si sa bene, chiarirà. Ha anche detto che i soldi gli ha dati in nero le feste dell'unità. Sì, questo c'è un impresario che dice questa cosa, ieri intervistato anche da Libero, che Libero, sì, ha tirato indietro. Parlava di Grillo. Sì, vabbè, è chiaro, sono tutte accuse che uno, voglio dire, dovrebbe dimostrare, però è chiaro. Vincino, però questa storia di Gino Paoli, dai, non ma se vuoi che ti dica, allora Michelangelo non ha pagato la tassa sul marmo, no? Bene. E allora che diciamo? Che la pietà di Michelangelo fa schifo, però capito? Con questa cos'è che dici, Tortorella? Che le canzoni di Paoli sono canzoni non impegnate, ma di evasione. Sta attento, perché ha detto che se sente qualcuno fare battute su queste cose, anche se ha 80 anni, ti manda all'ospedale. L'ho letta su Twitter. Appunto, dice. C'è una pallottola nel corpo, si era depresso, si è sparato. È uno fragile. È fragile. Aiutiamolo. Diamoli. Apriamo una sottoscrizione per un conto. Un aiuto economico per Gino Paoli. Aiutiamo. Vabbè, invece c'è un altro protagonista con un'altra canzone che vi vorrei far sentire, perché è un altro protagonista di questi giorni che riguarda. C'è un intrigo in Rai, che non è Rai Way, peraltro. Non è peraltro Rai Way. Parlo della mia vita privata. No. Quindi non faccio. Sembra ridicolo pensare che la Rai aspetti la telefonata di un segretario di partito per decidere se parlare degli orti di Verona. Siamo alla follia, siamo veramente. Non sai più distinguere che giorno è. Sai, Vincino, chi è Elisa? L'Elisa di cui si sta parlando? No, ma io so chi era quello prima, quel cafone là della Lega, scusa. Sì, Salvini. Ma sì, ma sai chi è Elisa? Non lo sai, Tortorella, sai. Sono Isoardi là. Elisa Isoardi, la forse fidanzata di Salvini. Scusami, era oggi, ieri era a Roma. Sì, Salvini. Manda i due scugnizzi là del capogruppo e lui non ci va, perché deve andare da solo a fare il cretino al municipio. No, ma anche cretino, ma dai, dai, cretino a tutti. Ma un capone che sono qua, scusi, è di capo la Mattarella, da Presidente della Repubblica. Io sono stato da Presidente della Repubblica a pranzo. No? Com'è che hai detto Al Capone? Un cafone, ho capito. No, vabbè, la questione è questa, Tortorella, tu ti hai appassionato questa vicenda di Elisa Isoardi, che ha fatto un servizio contro il comune di Verona, casualmente governato da Tosi, non è che c'è un altro scemo di questa fermati. Ma dai, era un ordine nuovo là. Ma non è possibile, Tortorella, ma sono tutti scemi e cretini. Per Vincino, fai qualcosa, intervieni, Maurizio, di qualcosa. Politicamente è un periodo, guarda, un disastro. Vabbè, è un disastro, questo l'abbiamo capito. Maurizio, tu puoi fermati, Vincino. Maurizio, tu puoi credere che Salvini abbia chiamato Elisa? No, non lo credo. Credo che sarebbe stato meglio per lei, vista la situazione, non occuparsi della tassa da 15 euro sugli orti dei pensionati di Verona. È come se Giletti fosse accusato di prendere ordini da candidata alla Moretti. La Moretti, bravo, grazie, non mi viene il cognome. Di cui è apparentemente. No, è che volevi dare a me la responsabilità di dire che stanno insieme, questa è la verità. Era la classica tecnica della la Moretti. Ecco, come fai a sapere che no? Immagino che se dovesse parlare del Veneto, Giletti ci penserebbe due volte, insomma, no, in questo momento. È una questione di sì, ma non credo che stiano insieme, peraltro. Forse hanno avuto una liaison. Ho fatto un esempio, insomma. Una liaison. Vincino, cosa vuoi dire? Un giorno una foto, per favore. Là. Un giorno una foto. Là, d'estate, sono incontrati, una foto, tu baci. No, però io ho un minuto, là. Devo dedicarlo alla copertina di Panorama. Fermati, perché è una copertina interessante ed è questa. Uomo divorziato, uomo rovinato. È una copertina su come le donne siano diventate iene. Maurizio, ma che vi ha preso a Panorama? Guarda che non lo dico io, No, non lo dico io, e mia moglie, la mia ex moglie si è tranquilla, ovviamente. Diceva, l'hai fatta tu la copertina di Panorama? No, la copertina nasce perché intervista con Anna Maria Bernardini De Pace, sì? Notoriamente avvocato matrimonialista e esperta in separazione e divorzi, sì? Che per una vita 25.000 cause ha sì? fatto, più o meno. Si è sempre schierata dalla parte delle ex mogli. Stavolta. Che ti dice oggi la signora l'avvocato? Che le donne trasformano i mariti in bancomat. Sì, no, che le vere iene sono loro. E da questo punto stabilisce che smette di difendere i maschi e racconta delle cose molto interessanti, molto divertenti. Da questo abbiamo preso l'occasione e siamo andati a vedere come effettivamente in media vengano fatte separazioni e divorzi in Italia. E di fatto, obiettivamente nei tribunali c'è una pazzesca. Ma guarda, lo leggeremo e lo leggerò con attenzione, non voglio dare messaggi subliminali, ma voglio perché qua ogni frase va interpretata così. Ma porca miseria, vi devo salutare, Vincino Tortorella, purtroppo siamo arrivati alla fine del Parlamento. Ciao, comprate Panorama, ciao, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti come sempre a leggere i giornali in questa fascia fino alle 8. Poi alle 8:15 di cosa parleremo? Oggi prenderemo spunto da un libro uscito da poco, si intitola La Scelta. L'autore è Giuseppe Remuzzi, è un medico, professore molto apprezzato in Italia e all'estero. Il sottotitolo di questo libro: perché è importante decidere come vorremmo morire. E avete capito forse il tema di cui parliamo, certo un tema scomodo, un tema magari che qualcuno dirà no, ma come dobbiamo parlare? Invece sono temi molto molto attuali. Sapete che proprio in questi giorni è uscito anche un altro libro di un teologo molto importante, Hans Küng, che ha portato avanti questa teoria: resto cristiano anche se scelgo come morire. Certo, si parla di eutanasia, ma non solo, di tutti gli aspetti di quella che è una pagina della vita, cioè la fine della vita. Ne parleremo con Giuseppe Remuzzi, ovviamente l'autore. Sarà con noi anche Mario Adinolfi, direttore della Croce. Sarà con noi anche Beppino Englaro. Vi ricordate la vicenda di Eluana Englaro? Dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 26 febbraio, intanto i titoli sono quasi tutti declinati sulla vicenda Governo RaiWay, l'offerta di Mediaset per l'acquisto delle antenne RaiWay. Il governo frena Mediaset, RaiWay resti pubblica. Questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina. Per il Corriere della Sera invece si sceglie i conti, l'Italia passa l'esame all'Eurogruppo. Ma la vicenda RaiWay torna su Repubblica, il governo blocca Mediaset, Enel sul mercato, il tesoro vende il 5-7%. Mediaset vuole le antenne Rai, questa è la Stampa. Berlusconi ci mette 1,2 miliardi, questo è il titolo del Giornale. Mediaset Premier invece di Mediaset Premium, il Fatto Quotidiano, e qui ovviamente si adombra il sospetto dell'accordo, quello che sul manifesto è Nazareno TV. E c'è una foto delle antenne Rai. Il cavaliere muove le torri e dà scacco a Renzi, questo è il titolo di Libero. Come vedete, i temi sono abbastanza, i titoli sono monotematici. Riparte la guerra delle TV, anche il titolo del Messaggero. Oh, c'è però, e voglio subito partire da questa storia, una pagina che certamente è legata al tema che affronteremo noi, tanto per far capire come anche sui giornali il tema è ritornato di prepotente attualità. È la storia che Repubblica mette in prima pagina con un richiamo e poi interamente a pagina 27. Io, infermiere, vi racconto l'eutanasia silenziosa nei nostri ospedali. È un caposala al Careggi di Firenze, che viene citato solo per il nome di battesimo. È un cattolico praticante. Ogni anno, dice, nel suo reparto si spengono le macchine per 30-40 malati terminali. La legge lo vieta, ma ce lo chiedono i familiari. Così tra loro e i medici si stringe un patto di buon senso, definisce Repubblica. Perché in Italia tutto ciò deve rimanere segreto? E inizia questo racconto, affidato a Matteo Pucciarelli. Come possiamo definirla? Eutanasia silenziosa, dice. Per noi è un fatto di tutti i giorni, lo affrontiamo con grande difficoltà, ma sicuri di fare sempre la cosa giusta. Si chiama Michele, lo chiameremo così, in realtà è un nome fittizio, ha una laurea, specializzazione master, carriera infermieristica, oggi è caposala al Careggi di Firenze. Ha voglia di raccontare quello di cui, chissà se per pudore o se per una congiura del silenzio, nessuno parla mai. E di farlo evitando la politica, ma col buon senso di chi sta in prima linea. Premessa, Michele non è ateo, anzi è cattolico praticante, va a messa due volte alla settimana, sorride di questa apparente contraddizione, ma qui Dio non c'entra, aggiunge lui. Sono un professionista, ho studiato, e se teniamo in vita artificialmente un paziente, siamo noi che ci stiamo sostituendo a Dio. E racconta di come ogni anno almeno 30-40 casi di persone sospese in una terra di mezzo, dove il confine tra cosa è eutanasia e cosa non lo è sottilissimo. Racconta, dal punto di vista normativo siamo obbligati a nutrire e idratare anche un vegetale. In queste condizioni un paziente può andare avanti per mesi, anni, un po' come avvenne proprio per Eluana Englaro. Ho perso il conto di quanti malati ho visto così, e da fuori, quando si sta bene, non ci si rende conto di quanto sia facile ritrovarsi in quelle condizioni. Il caso Eluana ci diede una lezione. Nessun riflettore, silenzio sulla materia con l'esterno, poi però mi chiedo se è giusto omettere la verità. E racconta come si vive appunto nelle segrete stanze, non sotto i riflettori, come fu il caso di Eluana Englaro, ma nelle vicende di tutti i giorni, questo rapporto, che poi è un rapporto, non essendoci una norma, che è un rapporto necessariamente personale tra pazienti, parenti, medici. È la storia che trovate su Repubblica e di cui certamente parleremo dalle 8:15. Allora, buone notizie per la barcaccia del Bernini. Rotterdam ha detto che risarcirà, quindi non è più una vicenda di calcio. Il sindaco di Rotterdam, la città contribuirà al restauro, è un titolo che trovate su Avvenire, anche a pagina 12, tra l'altro proprio nel giorno in cui a Rotterdam invece sono attesi, blindatissimi, in una blindatissima Rotterdam, avete sentito, i tifosi della Roma. Speriamo davvero che vada tutto bene, mi raccomando, però insomma l'unica è sperare. Ma voglio andare su alcune notizie di cronaca che mi hanno colpito, tipo questa: ha diritto al rimborso ma il fisco non sa calcolare gli interessi. Ma come, voi pensate a parti invertite questa vicenda, cioè quando è il fisco a chiedere dei soldi a un contribuente? Qui succede il contrario, come racconta Federico Genta, pagina 14 della Stampa. Quando si tratta di calcolare una somma evasa, l'agenzia delle entrate, si sa, è sempre piuttosto precisa. Ma al contrario succede che un contribuente ha fatto ricorso e ha vinto. Alla fine, dopo una serie di anni di ricorsi e controricorsi, gli hanno restituito i soldi, ma senza gli interessi. Al che lui ha scritto all'agenzia delle entrate, ha detto: scusate, mancano gli interessi. E gli rispondono a questo contribuente: non sappiamo calcolarli, manca il software per calcolarli in automatico, e quindi non sanno come calcolarli. E vabbè, ripeto, pensate se fosse accaduto il contrario. Il fisco vi chiede dei soldi e voi non glieli date, e non so calcolare bene gli interessi. Quando devono calcolare gli interessi dovuti a loro, li calcolano benissimo, software o non software. Comunque, l'Agenzia delle Entrate non ha il software adatto, succede a Torino, ha diritto al rimborso, ma il fisco non sa calcolare gli interessi. Succede questo. Oh, ieri abbiamo parlato della vicenda dei vitalizi, abbiamo fatto notizia perché D'Ambruoso quest'ora alla Camera ci aveva preannunciato che nel pomeriggio sarebbe stato reso noto un parere che si è scoperto adesso è stato affidato all'ex presidente della Corte Costituzionale Mirabelli. Il tema è: ma si possono sospendere questi maledetti vitalizi per i condannati in via definitiva? Al Parlamento che prendono il vitalizio ancora, non è una cosa scandalosa? A voce tutti dicono che è scandalosa. Sentite qui, Grasso: non serve una legge, è una vergogna, sospenderli subito. Boldrini: è uno scandalo, inaccettabile erogare vitalizi ai corrotti. Sto leggendo l'articolo per esempio di Mario Aiello a pagina 9 del Messaggero. E allora voi direte: beh, ma se sono tutti d'accordo lo faranno. E invece lo stesso Aiello dice: come ci ha preannunciato ieri D'Ambruoso qui ai questi microfoni, c'è qualche problematicità. Problematicità. Perché? Perché a qualcuno è venuto il dubbio che alla fine non se ne farà niente. Le strade, come ci ha detto D'Ambruoso, sono due: o una delibera degli uffici di presidenza che potrebbe essere presa in 448, oppure una legge che ha un iter un po' più complicato perché deve passare in aula. Alla fine, si chiede Mario Aiello sul Messaggero, ci sarà tanto rumore per nulla e la casta difende la casta e le problematicità giuridiche faranno premio sull'esigenza di rispettabilità e di pubblica moralità, oppure il palazzo riuscirà ad avere un sussulto d'orgoglio? Chi lo sa, ci sarà questo sussulto d'orgoglio? Noi siamo qui, siamo qui a cercare di tenere la questione sott'occhio. Anche il Corriere: il muro dei partiti sui vitalizi ai condannati. Grasso torna giurista per farli eliminare. Speriamo che succeda. Oh, come avete sentito, dopo il casino scoppiato alla Zanzara con Toscani, Oliviero Toscani, potete dare degli ubriaconi ai veneti. Questo è il dato di fatto, perché è un luogo comune. È un luogo comune, non ci sono gli estremi per la diffamazione, e quindi, come scrive Giordano Tedoldi su Libero, liguri e marchigiani tirchi, siciliani facili di Lupara, pugliesi terroni, piemontesi false cortesi con gianduiotti, romani magnoni, laziali burini, tutto si può fare, si può fare quello che mi viene in mente, abruzzesi ottusi come i muli. No, niente, sulle donne emiliane, diciamo, ci fermiamo ai tortellini. Si è fatto prendere un po' la mano Giordano Tedoldi su Libero, con una serie di luoghi comuni sui quali però potete fare quello che volete, no? Evidentemente veneti ubriaconi, ha detto Oliviero Toscani, non c'è diffamazione, luogo comune, e allora avanti con i luoghi comuni. Va bene, ma se ci state ascoltando in treno, non in macchina, in treno, anche in macchina, ma soprattutto in treno, mani sui braccioli, perché vi sto dando la notizia che ci fa pensare della giornata, riguarda i treni. Tenete anche le mani sul volante, non mettete le mani al bigliettaio, che non c'entra nulla, non c'entra nulla in questo caso. Tazzine di caffè poggiate, tutto a posto. Ecco qua, Corriere della Sera: pagati di più se il treno ritarda. Succede nel contratto, secondo una denuncia anonima di alcuni macchinisti, nel contratto della Trenord, succede che vengono pagati a ore e scattano ai macchinisti dei surplus proporzionalmente alle ore di lavoro, per cui se si lavora un po' di più, cioè se il treno arriva un po' più tardi, il macchinista vede scattare sul proprio contratto un aumento di stipendio, perché scattano. E la stessa amministratore delegato della società dice: effettivamente sono arrivata qui, e c'è Cinzia Farisè e racconta: ho trovato questa situazione che va assolutamente cambiata. La denuncia anonima a Trenord: scatta lo straordinario se il treno arriva in ritardo. Ma capite che il mondo è fatto alla rovescia in alcune cose in Italia? Alla rovescia, alla rovescia. Alessandro Milan, il cilentano dell'informazione. Dovrei però allora gridare tutte le notizie e i titoli. È da un po' quanto mi mancano le lettere di Celentano. Ti prego, molleggiato, scrivi una lettera sul Fatto Quotidiano o da qualche parte, per favore, anche sul Corriere, con tutte le maiuscole. Non vedo l'ora di leggerla. Ma manca da un po'. Comunque la notizia del giorno, che è diventata notizia da finanziaria politica in un batter, di, in un batter di, d'ali, è quella di Mediaset. Mediaset che tenta la conquista di Rai Way, o meglio la controllata Mediaset A-Towers ha lanciato un OPAS da 1,2 miliardi sulle antenne Rai. Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore, pagina 5, racconta tutti i dettagli dell'offerta, l'offerta che ha fatto schizzare il titolo a più 9,46%, l'OPAS sul 100% vale 1,2 miliardi, è costruita su due assi, agli azionisti andrà una parte in contanti, il 69% a 3,13 euro, vale a dire 851 milioni, e su questo fronte i Towers sarà supportata da JP Morgan, e il 31% in nuovi titoli 0,03, che saranno al centro di un aumento di capitale da 373 milioni al vaglio di un'assemblea straordinaria della controllata Mediaset, assemblea che si terrà il prossimo 27 marzo. Questi sono i termini, molto in sintesi, dell'operazione finanziaria. Cosa succede? Apriti cielo! Il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, ricorda di come aveva denunciato a Porta un anno fa questo rischio. Mi aspettavo quello che sta succedendo, dice ora Fico, intervistato dal Corriere della Sera a pagina 2. Lo avevo denunciato pubblicamente a maggio dell'anno scorso e Berlusconi, a Porta, mi diede del buffone e minacciò querela. L'abbiamo fatto sentire prima alle 6.30, La querela non è mai arrivata, in compenso è arrivata l'OPA di Mediaset tramite i Towers su Rai Way. Eccolo qui Roberto Fico, che è un fiume in piena e dice quello che è successo è una follia. Chiediamo con forza al Ministero dell'Economia, al CDA della Rai, all'antitrust di dire assolutamente no a questa operazione. Per la verità, ieri c'è stato subito un comunicato del governo, come racconta Marco Mele a pagina 4 del Sole. Il governo è ad avvertire che nonostante questa offerta pubblica di acquisto e scambio, in una nota ufficiale un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito di mantenere in capo alla RAI una quota di capitale non inferiore al 51%. E dunque il governo avverte, guardate che il 51% resta pubblico. Certo, allora c'è chi la butta sul patto del Nazareno. Come detto, Fico lo dice chiaramente, l'aveva denunciato. Il manifesto mette Nazareno TV, ma anche il Fatto Quotidiano titola Mediaset Premier invece di Mediaset Premium. E, Repubblica con Ettore Livini fa un'analisi di quella che è la situazione economica di Berlusconi. Saltato il Nazareno, Berlusconi all'attacco sulla TV e sui libri della RCS. E sì, perché come sapete da alcuni giorni c'è anche la questione dell'offerta di creare il megapolo dell'editoria Mondadori, che acquista RCS Libri. Un qualcosa che anche lì ha creato, suscitato anche un dibattito e anche qualche freno a mano tirato negli ultimi giorni. Comunque il patto del Nazareno, scrive Livini, è saltato. I salotti buoni ormai sono materia da archio finanza. Le cassaforti di casa Berlusconi, orfane dei dividendi Mediaset, sono a corto di liquidità. E la Fininvest, ritrovatasi all'improvviso con le mani libere, è partita all'attacco. In una partita in cui finanza, politica, questioni di famiglia vanno a braccetto. Che qualcosa bollisse in pentola era chiaro da qualche mese. Sotto traccia, senza proclami, il biscione ha iniziato a metter fieno in cascina da fine 2013, varando quella che sembrava solo una campagna di saldi per sistemare i conti. Sul mercato sono finiti il 5% di Mediolanum, il 7,7% di Mediaset, una quota di A-Towers, le TV digitali in Spagna, il 10% di Premium e perfino il Milan, i cinema, il golf di Tolcinasco. Insomma, un incasso totale di 1,5 miliardi. Buoni per tappare il buco del lodo Mondadori, dicevano gli analisti, e invece stai a vedere che per Berlusconi sono buoni anche per, a questo punto, fare acquisti. Stiamo a vedere come evolve la vicenda, che come succede in Italia non è solo una vicenda finanziaria, ma diventa una vicenda subito anche politica. Tra l'altro, a proposito di Rai, c'è un altro tema, che è quello della riforma della governance della Rai, che pare arrivare proprio ai giorni importanti, non vorrei dire decisivi per non cadere nel ridicolo, però diciamolo, decisivi. Allora, perché raccontano i giornali che sono due le ipotesi in capo a Renzi per riformare la RAI. Secondo il Corriere della Sera, con Paolo Conti addirittura il premier sceglierà entro domenica. Due le ipotesi avanzate dal sottosegretario alla comunicazione Giacomelli e da Lorenza Bonaccorsi, che è responsabile cultura del partito. Le ipotesi sono: la prima, classica, nascita di una fondazione che erediti la proprietà della RAI, un consiglio di amministrazione snello a 5 membri, un direttore generale che riunisca sul modello di Ettore Bernabei poteri editoriali ed economici. L'incognita di ciò sono i tempi lunghissimi di trasferimento delle azioni RAI alla fondazione. La seconda ipotesi, che invece sembra prendere corpo nelle ultime ore ed è stata esposta dall'ex consigliere RAI Rognoni in un intervento sull'Huffington Post il 17 febbraio, è questa: rivedere rapidamente la legge Gasparri su criteri di nomina dei vertici, un sistema duale, cioè un consiglio di sorveglianza allargato alla società civile che nomina un consiglio di gestione con un presidente amministratore delegato con tutti i poteri per rifondare la RAI di domani. Sono tutti tecnicismi sulla governance. La domanda che si fanno gli italiani è una sola: ma la RAI uscirà dal controllo dei partiti? E la risposta è semplice: no. State sereni, no. Tra l'altro, a proposito di presidenza del Consiglio e di Premier, oggi c'è una notizia sul Fatto Quotidiano che viene messa in pagina da Thomas McKinson, e che suona così dal titolo, pagina 4: Colella, il giudice prima assolve Renzi e poi viene promosso. La vicenda riguarda l'assoluzione che c'è stata in appello per le vicende che risalgono a quando il presidente del Consiglio attuale era presidente della provincia di Firenze. L'accusa era aver dato incarichi dirigenziali senza concorso né laurea al personale dello staff della sua segreteria. Due condanne per danno erariale, tutto ciò era costato a Renzi, ma c'è stata un'assoluzione. Scrive però il Fatto Quotidiano: facciamo registrare che il giudice, uno dei giudici che ha firmato l'assoluzione di Renzi, si tratta di il giudice appunto Colella, qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza è stato promosso su proposta dello stesso Renzi a procuratore generale della Corte dei Conti, cioè capo di coloro che debbono indagare se sussistono ipotesi di danno erariale. La sentenza era stata depositata il 4 febbraio, la nomina è stata ratificata il 10 febbraio a margine del Consiglio dei Ministri. Il Premier ratifica la nomina alla Corte dei Conti del magistrato che lo ha giudicato sui portaborse. Questa è la denuncia. Sul Sole 24 Ore, sul Fatto Quotidiano. Siccome vedevo già che era pronto Mauro Meazza, davo a Mauro Meazza ciò che non era di Mauro Meazza. Questo è il dato di fatto. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, sei sempre troppo generoso, forse avrei qualcosa da farti perdonare. Anche perché no, la vedremo con gli avvocati, come al solito. Come sempre la vedremo con gli avvocati. Poi sai che oggi vorrei essere parco di parole, vorrei andare a risparmio, anzi vorrei essere un po' scozzese anche in un certo senso. Non so se tu puoi dillo oggi, che domani non si sa. Del domani non v'è certezza, ecco. Ti sento lirico questa mattina o stai solo gufando, perché non vorrei che tu stessi gufando. Vai avanti, va bene, comunque ti farò avere qualche, non so, un biglietto per il cinema, un gentile omaggio o qualche cosa. Ti volevo dire oggi di non perderti il giornale della famiglia, perché lo sai che oggi è giovedì, ecco, ieri no. Ti segnala petrolio. A dire la verità avevamo già fatto uno scoop ieri, ti avevo detto che dopo il mercoledì viene il giovedì. Esatto, questo si è verificato anche questa volta, e quindi abbiamo il giornale della famiglia, questa volta dedicato al petrolio. Poi petrolio, come sai, caro Alessandro, vuol dire tante cose, vuol dire ad esempio anche il prezzo della benzina o il prezzo della nafta, del diesel, insomma come lo chiamiamo tutti. E perché appunto come si arriva al prezzo del petrolio, al prezzo dal distributore, questo uno dei misteri meglio custoditi, diciamo, delle cose moderne, però te lo spieghiamo oggi sul Giornale della Famiglia, lo vogliamo svelare. Tra l'altro ti segnalo anche, come ogni giovedì, perché come dopo il mercoledì viene il giovedì, ogni giovedì c'è Casa 24, mm-hmm. Non so se avevi mai fatto caso alla casa, esatto. Ecco, sappi che su Casa 24 oggi abbiamo un interessante approfondimento sulle banche che diventano a loro volta agenzie immobiliari. Mm-hmm. Quindi questi due URI che tu stai faticosamente riportando con la voluntary disclosure, ovviamente anche oggi parliamo di voluntary disclosure, ma che te lo dico a fa? Tu li hai riportati con la volontà di disclosure, stai per farlo, no. Vuoi finalmente acquistare, come no? Sento questo venticello di calunnia che continua a spargere sui miei due ordini. Non è una calunnia, se tu ti rimetti nella regolarità... Virtualmente, lascia stare. Vabbè, comunque, li riporti, puoi anche andare in banca a decidere un acquisto con due urini, vediamo che cosa... D'accordo che il credito dovrebbe ripartire col quantitative easing, forse sui due urini dovresti mettere qualcosa di più. Poi ti parliamo anche di naturalmente di Jobs Act, volevo segnalare una cosa di servizio. Se per caso le sei pagine di Jobs Act non le avete viste sul Sole 24 Ore, non le avete trovate, le potete trovare oggi, sono sul sito del Sole 24 Ore, sono in vendita sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. è tutto ciò premesso, caro Alessandro. Traffico! Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Vabbè, era da giorni che gliela volevo fare al nostro Mauro Meazza, non si è sentito però il gesto dell'ombrello. Vabbè, comunque, traffico. Grande Maurino e forza Celtic. Allora, Berlusconi in realtà racconta Repubblica a pagina 12, ha questa tentazione: mollo tutto, ho quella villa ad Antigua, stride un po' con gli acquisti Mondadori, Fininvest, insomma, no, questa è in realtà questa confessione che Berlusconi, come racconta Carmelo Lopapa, avrebbe detto un po' a tutti coloro che l'hanno ricevuto: stanco, sfiduciato, tutti tramano contro di me, ho voglia di mollare, di andare via, ho questa villa meravigliosa ad Antigua dove sono stato una sola volta. Questa avrebbe detto Berlusconi a chi è stato con lui ieri, soprattutto molti avvocati. Ci sono molte polemiche ancora per la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. C'è un'intervista al vicepresidente del CSM Legnini, l'organo di autogoverno dei giudici, intervistato da Liana Milella su Repubblica. Dice: contro le toghe temo ricorsi a valanga, sarà necessario arginare i ricorsi più pretestuosi. Tra l'altro ha fatto anche discutere il fatto che Matteo Renzi abbia ritwittato un tweet di Gaia Tortora. Gaia Tortora è una delle figlie di Enzo Tortora, oggi apprezzatissima giornalista della Sette. Finalmente, viene intervistata dalla stampa, Gaia Tortora, finalmente si paga per gli errori, è un rischio che tutti corrono. Martedì, dopo l'approvazione della legge sulla responsabilità civile, Gaia Tortora ha fatto questo tweet: questa sera è anche un po' nostra, anche vostra, e allegata c'era la foto del papà Enzo Tortora che fa il segno della vittoria. Insomma, la considera una vittoria postuma, chiede la stampa. Negli ultimi giorni mio padre ripeteva: io sono qui a dare voce a chi non ne ha, e anch'io in tutti questi anni ho ricevuto tantissime lettere da chi aveva subito un'ingiustizia. Questa legge è una prima risposta per loro. Ognuno può dire quello che vuole, che non cambia nulla, che si poteva fare meglio, ma la sostanza è che dopo 30 anni questo paese ha iniziato a muoversi. Pagare per i propri errori è un rischio che i cittadini normali vivono ogni giorno, in ogni mestiere. Vorrei invece sapere, sarebbe anche un mio diritto, perché i magistrati che hanno condannato mio padre sono stati addirittura promossi, a un controsenso. Non si è mai visto uno che ruba in un ufficio postale e viene promosso a direttore di quell'ufficio. Ecco, questo è ciò che dice Gaia Tortora, una delle figlie di Enzo Tortora, intervistate dalla stampa sulla questione della responsabilità dei magistrati. Ci sono tante notizie anche interessanti che vorrei leggervi, il tempo è poco, faccio citazione di alcune. Per esempio l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia oggi dà un colpo proprio pa, una mazzata molto dura alla quella che lui definisce una delle caste, quella dei docenti universitari. In realtà, Galli della Loggia, il titolo dell'editoriale in prima pagina è "Chi non si guarda allo specchio mette sotto accusa tutta la classe dirigente italiana, non solo la casta dei politici, ma proprio tutta: avvocati, magistrati, alta burocrazia, medici, notai, giornalisti, farmacisti". Poi però dice: "Parlo qui di quella che conosco meglio, i docenti universitari. Come ha raccontato Gian Antonio Stella, l'età media delle varie fasce è impressionante: 60 anni gli ordinari, 53 gli associati, 47 e mezzo i giovani ricercatori, giovani tra virgolette. E perché?", scrive Galli della Loggia. "Di chi è la colpa di tutto ciò? Del governo? Del Parlamento? Dei ministri? No! La massima colpa è dei professori universitari stessi. Bisogna sapere infatti che grazie all'autonomia riconosciuta alle singole sedi universitarie sono stati loro che fino ad ora hanno amministrato a proprio insindacabile giudizio l'organigramma della docenza delle rispettive università. Sono stati loro che hanno deciso e decidono come impiegare i fondi a disposizione, scarsi, certo, scegliendo ogni volta se far posto a due giovani ricercatori o a un ordinario, se promuovere un ricercatore nella fascia dei professori o viceversa far passare un professore dalla seconda alla prima fascia. Decisioni che nella stragrande maggioranza delle quali il criterio fondamentale è stato sempre fatalmente uno: il favore ai propri amici. Questo è ciò che in Italia significa quasi sempre l'autonomia nella realtà delle cose. Questo è il risultato inevitabile quando a una corporazione viene dato il privilegio di autoamministrarsi al di fuori di ogni controllo". Questo è Ernesto Galli della Loggia sull'università e sui i professori. Venghino siori e siori, torna l'asta su eBay delle auto blu. Racconta Repubblica che a pagina 22 che ritorna l'asta delle auto blu, oltre 30 sono in vendita e sono le auto blu del Ministero della Difesa. Venghino siore e siori, tocca a loro. Nella precedente tranche sono stati incassati 700.000 euro. Alberto D'Argenio racconta che il governo ci riprova. Andate su eBay e cercatevi una bella berlina. Parla invece Alberto Stasi. È la prima volta che lo fa in un'intervista al Giorno, dopo la condanna a 16 anni di reclusione da parte della prima corte d'assise d'appello per l'uccisione della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. Parla per la prima volta, intervistato da Gabriele Moroni, dice: "Sono innocente, la sentenza per me è una cosa inaspettata e terribile. Non me la sento di contattare i genitori di Chiara, loro pensano che io sia colpevole ed è una cosa che mi fa un male enorme, non ci sono ancora riuscito, decine di volte ho pensato di avvicinarli e mi piace pensare che lo stesso abbiano pensato loro di me, ma non voglio che pensino che sia una strategia legale o mediatica la mia". Alberto Stasi, che in questa lunga intervista titolata "Parlo con Chiara sulla sua tomba", conclude dicendo: "Faccio un appello, chiedo a chiunque sappia qualcosa di mettersi una mano sulla coscienza e di uscire allo scoperto". Insomma, sono innocente, chissà parli. C'è molto anche sull'ISIS, eh? Il capo della polizia che dice: "Mai come in questo momento c'è il rischio attentati in Italia", è un qualcosa che certo non tranquillizza. Sarebbero anche una decina i combattenti andati in Siria e ora rientrati in Italia. E vabbè, cose che inquietano abbastanza. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Va a Repubblica, a Enrico Franceschini, un'intera pagina, una piena, densa, sulla Apple, che lancia i nuovi simboli, i nuovi emoticon. Sapete quelli che poi le faccine ti ritrovi dovunque? Ecco, ci sono le faccine multicolori, c'è la faccina con la coppia gay. Insomma, l'emoticon diventa politically correct. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi su Repubblica, in prima pagina e poi a pagina 27, c'è il racconto di un caposala infermiere all'ospedale Careggi di Firenze. per sua stessa definizione cattolico praticante. Il titolo dell'intervista: io infermiere vi racconto l'eutanasia silenziosa nei nostri ospedali. Racconta di come almeno 30-40 malati l'anno, in silenzio, certamente violando la legge, ma perché si stringe un rapporto, un patto di buonsenso, lo chiama lui, tra i pazienti, i parenti dei pazienti e i medici, si staccano, si spengono le macchine. E si chiede in questo racconto, questo infermiere Michele, perché tutto ciò in Italia deve rimanere in segreto? Perché non se ne può parlare? Beh, intanto dico io, sicuramente è uno di quei temi un po' scomodi, si tende ad evitare, in fondo stiamo parlando della fine della vita, dunque della morte, no? E poi si sa come vanno certe cose in Italia. Ricordate il caso che questo infermiere cita, per esempio, il caso di Eluana Englaro? Si è pronti, quando c'è una storia, un caso concreto, a dichiarare, a mettere in piedi dibattiti, a litigare, a questionare, a dividersi, a spaccarsi, ognuno a dire le proprie cose, e poi quando si spengono i riflettori, magari su un caso concreto, su queste cose profonde in Italia, non si fa mai nulla, non si discute, i dibattiti rimangono sotto traccia. Oggi partiamo da qui, da questa storia su Repubblica. Partiamo dalla pubblicazione di un libro che ho qui davanti a me. È un libro che parla anche di queste tematiche. Si intitola La scelta, perché è importante decidere come vorremmo morire. È edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un apprezzato medico, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, ed è il responsabile di ricerca del Mario Negri di Bergamo, il professor Giuseppe Remuzzi, che spesso ai nostri microfoni avete sentito. Professor Remuzzi, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno a voi. Allora, intanto di questi temi, perché si parla poco? Lei giustamente dice nel suo libro: noi pensiamo ad organizzare al meglio la nostra vita, e questo è bellissimo, non pensiamo mai alla fine della vita, e questo forse è anche umanamente normale, o no? Sì, certo, è una umanamente normale. Il problema è che dopo l'essere nati, la morte è il momento più importante della nostra vita, e noi ci dobbiamo preparare, devono essere preparate le persone vicino a noi. Nessuno dovrebbe più morire solo. Io penso che questa è una cosa importantissima, una lezione importante che ti viene dagli ammalati, che ti viene da tante storie. Questo mio non è un libro di ideologie, di leggi, è un libro di cose vere, di storie, di racconti, di cose che succedono e per le quali noi dobbiamo saper prendere una posizione. C'è una cosa bellissima che ha scritto una volta Angelo Panebianco sul Corriere della Sera: la legge è il luogo più inospitale per depositarci le nostre ultime volontà. Se anche volessimo fare qualcosa per legge, dovrebbe essere molto flessibile, molto semplice, molto generale, perché tutti questi casi sono diversi l'uno dall'altro, gli esatto. ammalati sono diversi l'uno dall'altro. Anzi, spesso si dice che racchiudere in una legge che deve essere per forza una legge generale, che vale per tutti, queste migliaia, milioni di storie diverse sarebbe quasi impossibile, motivo per cui molti dicono una legge sarebbe difficile da fare. Certo, legiferare è difficile per tutti, ma per noi lo è ancora di più. Quella legge che è stata discussa in Parlamento in Italia senza riuscire mai a trovare un consenso non è una brutta legge, è una pessima legge, è molto meglio nessuna legge che una legge così. Ecco, giusto. Pensate per esempio che nell'articolo 3 si legge di pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico. Lo dicono con grande disinvoltura questi che legiferano, ma sono modi di dire. Chi ha scritto questa legge li usa come se in medicina queste parole corrispondessero a qualcosa, ma non corrisponde nulla. Per esempio c'è scritto accanimento terapeutico, cosa vuol dire? E come stabilirlo per legge? A questo proposito, io non so se lei ha già avuto modo di leggere questa pagina su Repubblica, che però consiglio a tutti, visto che è il tema anche inerente alla nostra trasmissione. Lei da medico può, per quello che ho letto in maniera in poche righe, confermare o smentire quello che dice questo caposala? Quello è stupendo, quello è esattamente il problema. Questo caposala ha preso il punto esattamente così e ha messo l'accento su una delle cose più importanti, per quello che ho letto, non su Repubblica, ma da Alessandro Milan questa mattina: il buon senso. Queste cose devono essere regolate da buon senso e soprattutto da conoscenze. Il fatto di parlare con grande disinvoltura di accanimento terapeutico, facciamo un esempio: quando Kolff ha sperimentato la prima macchina per la dialisi in un piccolo ospedale, dei primi 15 malati ne sono morti 14. Sì. Era accanimento terapeutico, Oggi avremmo detto che accanimento terapeutico è una parola che non esiste neanche nel vocabolario inglese. Colfi è andato avanti, oggi abbiamo 2 milioni di persone che vivono in dialisi. Quando parliamo di eutanasia diciamo qualcosa che non ha senso, a me non più di 2-3 malati su migliaia di malati hanno chiesto di morire. In realtà noi non dobbiamo fare terapie futili, terapie inutili, terapie che non servono, che è esattamente quello che ha detto questo infermiere. E stabilire dov'è è un qualcosa che appunto il medico dovrebbe in coscienza avere ben chiaro. Questa è una cosa che non possono stabilire i giudici. Voi avete presente i tempi dei giudici? Sì. I tempi nostri sono tempi di ore, minuti delle volte. Quindi noi quando dobbiamo prendere una decisione nel giro di minuti andiamo a chiedere a un giudice che decide dopo 4 mesi. Certo, quando va bene. C'è incompatibilità. Io le voglio presentare Giuseppe De Muzzi, intanto un altro ospite, anche lui un altro amico di Radio 24, Mario Nadinolfi. Mario, buongiorno. Buongiorno. Direttore della Croce Quotidiano, che di questi temi ha deciso. Io comunque uno la pensi, ha deciso, e questo te ne va dato atto, di occupartene, proprio perché non ci sono magari riflettori su grandi storie, eccetera. Però tu come scelta editoriale di giornale hai fatto partire questo giornale per parlare di queste tematiche, tra le altre. Tutti i giorni sono queste tematiche al centro del nostro lavoro, della nostra riflessione. Mi piace molto quello che ho sentito da Remuzzi, devo dire la verità, sono praticamente d'accordo. Io penso noi siamo stati chiamati per contrapporci, ma io sono assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. La formula del contrapporsi non è qua siamo a discutere. Dimmi che ne pensi. Il racconto è un racconto di verità. Allora, il primo tratto dato che traggo è su 1000 pazienti 2 chiedono di morire, insomma, quindi questo già è un elemento che ci fa capire come la persona nella malattia in realtà sia attaccata alla vita, perché è naturale che è così, insomma, è inevitabile che è così. Quelli che dicono adesso siamo sani, belli, giovani, in buona salute, scriviamo un testamento in cui diciamo che però se stiamo male vogliamo che ci staccano una spina, insomma, queste sono quelle forzature che hanno a che fare proprio con l'inesperienza rispetto al dolore. Mi interessa molto la posizione di chi dice attenzione a fare cattive norme, ecco, attenzione a fare cattive norme, è verissimo, sottoscrivo 1000 volte questo argomento, attenzione a fare cattive norme, attenti a immaginare che alcune terapie possano essere considerate come accanimento terapeutico, lo sono oggi, l'esempio della dialisi è perfetto. Magari oggi le immaginiamo come accanimento terapeutico, sono invece un lavoro scientifico che porta a immaginare che quando noi diamo 6 mesi in più di vita a una persona, non stiamo dando 6 mesi, come alcuni dicono, di vita non dignitosa, la vita è sempre colma di dignità. Su questo forse è uno degli elementi su cui si può discutere, però ti chiedo questo Mario, sai che un teologo importante, Hans Küng, cattolico, uno dei maggiori consulenti, anche amici del vecchio Papa, il Papa Ratzinger, ha scritto questo libro, Morire Felici, e dice da cattolico e da cristiano, anche se scelgo come morire, non ci vedo nessun tipo di contraddizione. Io non so se questi argomenti li dobbiamo affrontare con una chiave religiosa, questo è un elemento che voglio mettere al centro, pur essendo io il direttore di un giornale che si chiama La Croce, quindi puoi immaginare che questa questione non è che io non l'abbia affrontata. Non so se è un teologo su questo terreno che può darci la soluzione. Io dico dal punto di vista densamente umano, ma veramente umano, dello stare accanto alle persone che soffrono, la cui cura, attenzione, costa moltissimo, mentre la soppressione delle persone che soffrono non costa nulla, attenzione. Io nel giornale, anche nel libro che ho scritto, si chiama Voglio la Mamma, ho analizzato le curve statistiche di incidenza dell'eutanasia nelle nazioni dove l'eutanasia c'è, in Olanda, Belgio, Lussemburgo, l'eutanasia c'è da molti anni. Sì. Allora il tema è, se il primo anno di applicazione ci sono state poche decine di casi, e nell'ultimo anno di cui abbiamo i dati, nella sola Olanda, ci sono stati 3.950 casi di eutanasia, 221 suicidi assistiti e 650 soppressioni di bambini, perché nel frattempo è stata varata anche l'infame legge sull'eutanasia pediatrica. Cosa è successo, secondo te, tra quel primo anno di applicazione, che è il 2002, e l'anno 2013, dove ci sono state 5.000 soppressioni invece di 60? Cioè, è successo che si sono allargati dei confini che hanno portato a sopprimere persone, anche perché hanno grave sofferenza psicologica. Sì, e, queste sono uccidere costa molto. Queste sono le battaglie che tu fai quotidianamente e che sono le battaglie, diciamo, contro l'eutanasia. Però vorrei tornare un attimo al professore Muzzi. Quello che tu hai detto mi ha molto colpito, la questione del ogni tipo di vita, o meglio ogni scampolo di vita è dignitoso. Senti cosa scrive il professor Remuzzi a pagina 62. Lei, professore, a un certo punto fa questo tipo di riflessione: capita che persone di 80 anni col diabete, l'infarto, diversi bypass al cuore, in dialisi, con un tumore, siano tenute in vita col respiratore artificiale. Che prospettiva di vita può avere un ammalato così? Nessuna. E allora perché si va avanti? Ma per i parenti. E intanto capita che non ci sia posto per un ragazzo con la meningite o una donna che ha appena partorito. Allora, professor Remuzzi, ogni scampolo di vita è sempre comunque dignitoso, dice Adinolfi. No, ma anche qui c'è una confusione sul significato delle parole. Quando noi diciamo che la vita deve essere portata avanti fino alla fine naturale, che cosa vuol dire la fine naturale? La fine naturale mia e sua, se non ci fosse stata la vaccinazione per il vaiolo, per il morbillo, forse, sarebbe stata a 16 anni, a 14 anni, a 22 anni. Non c'è più niente di naturale dagli inizi del Novecento, da quando la medicina ha cominciato a cambiare la storia della nostra vita, la medicina vera. Prima non c'era medicina vera. Quando noi parliamo di stati vegetativi, facciamo grande confusione, perché stati vegetativi possono essere stati di minima coscienza da cui uno si può svegliare, stati vegetativi persistenti, che non è detto che siano irreversibili, ma ci sono stati vegetativi, per esempio, permanenti, quelli dopo un anno, da un trauma o dal fatto che non arriva ossigeno al cervello perché si ferma il cuore. Queste sono persone che aprono e chiudono gli occhi, ma non hanno nessuna percezione di sé e dell'ambiente, non possono alimentarsi da sole perché i centri della deglutizione sono morti. Questi sono i casi di Luana Englaro, di Terry Schiavo. Quando hanno fatto l'autopsia di Terry Schiavo, il cervello pesava 615 grammi, cioè la metà del cervello normale. Però lei dice con i macchinari in teoria potremmo tenerli in quella che può essere definita vita, secondo lei, certo, tra virgolette. Questi sono stati tenuti in vita per 16 anni, 17 anni, una cosa che non ha nessun senso. Quindi non è vero che uno scampolo di cosiddetta vita, questa non è vita. La persona che vi ho descritto prima in rianimazione non è una persona che vive, è una persona che sopravvive grazie alle macchine e che tra l'altro non ha nessuna possibilità di ripresa. E che dal momento che le possibilità economiche anche di accomodare persone malate non sono infinite, sì, il vero dramma, la vera cosa contro lo spirito del è mantenere in vita a scapito di un bambino che gira in tutti gli ospedali, non c'è posto e alla fine muore, questo, e quello ritornerebbe a una è un vita punto, normale. È un punto, è un dilemma. Parla di la scelta, questa è una cosa vera, noi dobbiamo il buon senso di quell'infermiere. Cioè, secondo lei la scelta del medico è la capacità di poter capire e fare tutte queste valutazioni e in quel caso specifico dire non è dignitoso, diciamo, regalare 3 settimane in più di vita a questa persona, è più dignitoso fare qualcos'altro. È più dignitoso interrompere terapie inutili, non è affatto accanimento terapeutico, perché i primi trapianti di fegato sono morti tutti i bambini, adesso i trapianti di fegato vanno bene, quindi quando c'è una possibilità dobbiamo fare tutto. Questo libro parla del più grande chirurgo del mondo, che è stato operato a 97 anni da un suo collega, perché nessuno voleva fare morire in sala operatoria, da un suo collega in pensione, il più grande chirurgo del mondo, che aveva detto: niente rianimazione se mi capita di essere in coma. E alla fine, quando si è svegliato dall'intervento chirurgico, ha detto: bravi, i medici in casi così devono saper fare senza bisogno di comitarsi. Michael DeBakey, è lui, Michael DeBakey. Esatto, questo vale in positivo. Facciamo 3 trapianti a persone anche anziane, l'abbiamo fatto in questi giorni nel nostro ospedale, ma avevano una possibilità. Ma lei dice deve poter valere anche in quello che è percepito da alcuni come in negativo, cioè poter certo, fare una scelta noi contraria. Dobbiamo rianimare, perché Luana Englaro e Terry Schiavo sono state rianimate, ma dobbiamo saper sospendere le terapie. Allora, visto che lei l'ha citata, tra 3 minuti dopo la pubblicità, insieme a Mario Adinolfi, insieme a Giuseppe Remuzzi, si unirà a noi Beppino Englaro, il padre di Luana. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:36 minuti insieme a Mario Adinolfi, direttore della Croce e Quotidiano, insieme a Giuseppe Remuzzi, che ha scritto questo libro La scelta, perché è importante decidere come vorremmo morire. Voglio salutare con grande piacere Beppino Englaro. Beppino, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, la vicenda di Luana Englaro la ricordate tutti, 17 anni in stato vegetativo permanente dopo un incidente stradale, una lunga battaglia giudiziaria portata avanti dal padre, battaglia alla fine vinta, che guardate, io lo dico, lo ribadisco sempre, so che anche Beppino ci tiene sempre, non c'entra nulla con l'eutanasia, non è un caso di eutanasia, ma è stata una battaglia per la libertà, cioè per l'autodeterminazione sul tipo di cure da ricevere oppure no. Lo dico io, ma io non ho mai fatto mistero di simpatizzare ed empatizzare con la battaglia di Beppino Englaro. Beppino, ho riassunto bene oppure c'è qualcosa che non va? No, perché lo dice la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Questo è chiaro, nero su bianco, nella sentenza del 16 ottobre del 2007, più di così non poteva essere chiaro, ma per la famiglia purtroppo una cosa del genere era già chiara nel gennaio del 92, perché quando sono capace di intendere e di volere posso dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita. Per il fatto che non sono più capace di intendere e di volere, sono sempre la stessa persona con gli stessi convincimenti culturali, etici, filosofici e confessionali, e la Costituzione italiana, senza essere costituzionalisti, è chiara che non lascia discriminare le persone per la loro condizione. È questo che ho trovato strano io. Ricordiamo, che ne pensi del fatto che di queste vicende se ne parla ormai ben poco? All'epoca, quando ci furono anche poi gli ultimi attimi di questa vicenda, ci fu, ricordiamo, anche tutto un cancan mediatico in alcuni casi un po' insopportabile. Poi di queste cose non se ne parla più, Beppino. Bene, professor Remozzi, è un tema che è divisivo, come dicono adesso, ed è molto, bisogna essere veramente, come ho sentito dire, bisogna avere molto buon senso, molta sensibilità e soprattutto, come dice sempre Remozzi, avere le conoscenze adeguate. E il Parlamento, in questo caso l'ha già detto, ha provato a legiferare, ma ne è uscito quello che ha detto, che non occorre che ripeta, che ha detto prima il professor Remozzi, e questo perché le istituzioni erano state investite di dare una risposta alla vicenda di Eluana. La magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, e l'ha fatto in una maniera veramente eccezionale, lo dirà la storia questo, perché la sentenza del 16 ottobre del 2007 è veramente è uscita dai confini tanto nazionali che nel circuito internazionale. Ti chiedo un parere su quello, poi voglio sentire Mario Adinolfi, non so se hai visto l'intervista di Repubblica, ma certo fa specie sentire e fa molto colpo di questo giornalista, di questo infermiere che dice succede tutti i giorni che in un patto silenzioso tra medici, pazienti e parenti si stacchino le spine. Ecco, Beppino Englaro, succede negli ospedali? Ma l'ha detto Remozzi nel suo libro, è chiaro. No, ma questo i medici non lo potranno mai dire, ma se lo dice, cioè metterlo nero su, non dire, metterlo nella cartella clinica, questo non lo fanno. Però guardi, se l'ha detto un medico come Remozzi, cosa vuole di più? Messo nero su bianco questo fatto. Succede. Ma vede, il problema di fondo è questo, sono questi profondi mutamenti nelle circostanze del morire nell'epoca della medicina tecnologica, perché noi non siamo veramente capaci ancora di governare questo potere di intervento del processo del morire raggiunto dalla medicina tecnologica, perché il problema è quale limite porre a queste cure in queste disparate condizioni umane. E quello che mi interessa sottolineare, io ho trovato il deserto in fatto di cultura dentro la società che sia disposta ad accettare la scelta, mi riferisco al lontano gennaio del 92, la scelta che è un concetto filosofico. Ecco perché il libro del professor Remozzi, che io ho avuto il piacere di averlo in anteprima perché me l'ha fatto pervenire dalla casa editrice, è veramente un libro di una semplicità e di una chiarezza, veramente la forza della semplicità di questo libro. È la forza della semplicità, che in realtà questi temi sono così, così intricati, così complicati, però per Beppino Englaro, caro Mario Adinolfi, è così, così semplice, così anche il tema della scelta quando si riferisce a quel gennaio 92, vuol dire il giorno dell'incidente in cui poi fu rianimata Eluana Englaro e fu messa in quella situazione che poi, protratta nel tempo, ha ha creato lo stato vegetativo permanente. La scelta è una cosa, un concetto filosofico basilare. È così semplice, Adinolfi, questa tematica? Beh, no, non credo sia una tematica semplice, in tutta franchezza. C'è l'infermiere che citate di Repubblica, potrei citarvi un'altra infermiera, una di Lugo di Romagna, che si faceva le foto con i cadaveri, che aiutava... Vabbè, quello è un omicidio, se accertato è un omicidio. Attenzione, perché se noi decidiamo che ci sono margini di discrezionalità, la cosa che mi preoccupa un po' di più adesso, però, è sentire che ci sia la discrezionalità del medico. Attenzione, questo è un passaggio che non mi convince per niente. Chi decide? Chi è che decide? Il medico con il paziente e se può e coi parenti. Il paziente in condizione di non poter esprimere la propria decisione, perché questo è il punto, per questo non è una questione semplice. Decide il medico? Allora, se decide il medico, la mia risposta è assolutamente no, mai, perché sulla decisione rispetto all'esistenza umana non decide il medico. Decide insieme a un paziente che non è in grado di esprimere la propria volontà? No, mai. Come se ne esce, però, Mario? Perché il testamento biologico non c'è la legge, il paziente a volte non è in grado di dire la sua. I disabili, anche gravi, si curano, non si sopprimono. Le persone che non sono attaccate alle macchine per respirare, ai respiratori, si curano, non si sopprimono. Sul tema dell'accanimento terapeutico, che è, ha ragione Remuzzi, un'espressione che vuol dire niente, bisogna porsi con grandissima attenzione e rispetto nei confronti della vita. Evidentemente io uso esattamente l'espressione che usa lui: non adottare terapie inutili. Sì. Questo sono esattamente, su questo credo che tutti sono d'accordo. Non adottare terapie, però hai messo due ma da qua dire che decide il medico, con pazienti che non possono esprimersi, e si sopprimono i disabili gravi non attaccati a macchine perché si decide che la loro vita non è degna. Ecco, no, io questa cosa non la so. Però scusa, il terzo, io allora ti seguo, adesso chiederò a Remuzzi, chiederò a Beppina Englaro, ma decidono i medici? No, mai. Remuzzi vorrei una risposta. Se il paziente non è in condizione di esprimere, la chiedo a Beppina Englaro. Ma il terzo caso che citi, ti riferisci per caso al caso di Eluana Englaro? Io sono fatto che qualsiasi disabile fosse in condizione di grave disabilità, non in grado di esprimersi, ma non fosse sostenuto nella respirazione da macchinari, quindi il famoso staccare la spina, cos'è? Quale spina? Perché questo è il punto. Vabbè, ti stai riferendo allora al caso di Eluana, diciamo, no, perché visto che c'è il padre, almeno può dare una risposta. Non so, vogliamo prima partire da Remuzzi sul decide il medico? No, mai. Dice, questa scelta chi la fa, Remuzzi? Di nuovo, il problema qui in realtà quello vero è il contrario: il medico purtroppo la maggior parte delle volte non decide, e allora vanno avanti così le cose. Nel libro c'è la storia di Anna, una persona che arriva con un dolore al petto, fa una coronarografia, poi dopo l'intervento i piedi freddi, arrivano degli emboli, forse bisogna amputare, si amputa, ha una infezione spaventosa, va in rianimazione, vive 3 anni senza poter comunicare, il suo corpo rimane in balia di tante persone, anche per le cose più intime, i familiari sono sfiniti dalla fatica, senza più un soldo, ne vale la pena? Io penso che ci si deve fermare prima. La molletta nel cuore è una donna di 88 anni con le coronarie molto malate, forse non andava messa. Però Adinolfi dice, i medici non lascerò mai a loro la scelta. No, la scelta è la scelta di buon senso, è la scelta del medico, dei familiari, degli ammalati. Un medico che conosce bene il suo malato sa come vorrebbe morire il suo malato. Noi purtroppo decidiamo di fare delle terapie che sono terapie senza nessuna prospettiva e che allungano le sofferenze in un modo spaventoso, senza che nessun malato lo voglia o l'abbia voluto o lo vorrebbe. D'altronde chi altro può scegliere, cioè in quelle condizioni? Però vorrei capire da Beppino Englaro. Beppino, ha sentito Mario Adinolfi, insomma, dire il medico no, e se il paziente non è in grado di esprimersi, come fu il caso di Eluana, perché arrivò ovviamente non in condizioni di potersi esprimere dopo l'incidente, che succede quindi? Guardi, Luana conosceva nello specifico la situazione che poi gli ha creato la medicina. Più di così, non so io, che aveva una conoscenza, aveva percepito questi pericoli e noi volevamo dialogare perché lei si era espressa con un semplice non a me ricordato quello che era successo al suo amico Alessandro esattamente un anno. Questo però si è potuto ricostruire solo dopo un lungo iter giudiziario ex post, al momento del fatto. Noi al medico l'abbiamo fatto presente da subito, volevamo dialogare, ma sempre nel libro a scelta del professor Remuzzi è chiaro che poi si deve decidere con i medici, come è stato fatto in Inghilterra nel caso di Tony Bland. Ecco, è lì il caso, io mi ricordo benissimo, questo è del 93, allora l'incidente di Luana del 92, la diagnosi-prognosi definitiva nel 94, proprio a cavallo c'è stato questo caso dove hanno deciso i medici con i familiari. Io mi attendevo, oltre che, prima di tutto il medico che è responsabile della rianimazione di Lecco ha detto non c'è niente da dialogare, io non posso non curare, e una volta che aveva creato questa situazione, perché lui è stato molto semplice e molto chiaro, e non c'è stata mai nessuna divergenza che la condizione clinica dell'Eluana fosse di stato vegetativo permanente, ma per lui una condizione, per la medicina a questo punto è al servizio della non morte a qualsiasi condizione, e per l'Eluana questa condizione era peggiore della morte, perché lei diceva la morte fa parte della vita, ma questa condizione che crea la medicina non esiste in natura, non è che è di disabilità, esiste una condizione che veramente è inaccettabile, inammissibile per la coscienza personale dell'Eluana, perché qui parliamo sempre della coscienza personale della singola persona, ogni caso è fine a se stesso. Quindi quando il medico mi dice non ci sono risposte, non ci sono soluzioni, questo è stato il colmo per me. E lui disse, e gli ho portato l'esempio inglese, lui ha detto la cultura anglosassone non ha niente a che vedere con la nostra cultura. Quindi ecco, cioè questo è stato veramente, più chiaro di così non poteva essere. No, ma infatti su questo ad Adinolfi si creò lì uno stato che effettivamente viene riconosciuto non esistente in natura, come lo vogliamo chiamare, di non morte. Tu lo vuoi chiamare di vita, Mario? Sì, sì, per me è la vita, io lo dico chiaramente. Non, ma hai sempre pensato così, cioè anche all'epoca dei fatti? All'epoca dei fatti, il dato fondamentale, ma al di là del fatto di Luana, allora io ovviamente ho Peppino davanti, insomma, adesso non mi metto a fare la discussione, proviamo a ragionare in termini, insomma, la finalità qual è? Che ci sia un protocollo, d'accordo? Remuzzi dice, mi arriva questa paziente, va in quel tipo di condizione, bisogna amputare, la sua esistenza diventano 3 anni di esistenza, chiamiamola così, infernale. Io voglio capire, la proposta qual è? Che in quel momento, quando si vede che la paziente sta andando, come dire, in malora, la si lascia morire? Perché questo è il problema. Cioè, io voglio capire, non credo, la si lascia morire sembra una cosa... La decisione, queste non sono cose secondarie. Ma l'ha detto chiaramente, il medico con i parenti. No, perché in quel momento, come dice Remuzzi, sono minuti, istanti in cui lui è solo col paziente. La decisione la assume il medico. Remuzzi, ci sono casi in cui è questo il punto sul quale Remuzzi, Adinolfi, non ci sono dei momenti di interventi di minuti in cui Adinolfi dice non voglio delegare al medico la scelta di decidere che fare. Ma, guardi, questa costruzione che è artificiale si deve invece queste cose sono molto semplici, come diceva Beppino Englaro, si basano su 2 colonne portanti. Il primo è il buon senso, come diceva l'infermiere, e la seconda sono le conoscenze. Qui noi parliamo senza avere le conoscenze. La questione di Eluana Englaro è stata affrontata con l'autopsia di Terry Schiavo, che è stata in stato vegetativo permanente più o meno per lo stesso tempo. Quando il neurologo di Harvard ha fatto l'autopsia, ha detto al New York Times, state tranquilli, non ci poteva essere nessuna forma di coscienza in quel cervello, né ci sarebbe mai potuta essere, per quanto chiunque si fosse prodigato in tutti i modi possibili, semplicemente non c'erano neuroni. Ma noi le sappiamo benissimo queste cose. Come si può pensare di continuare a idratare, alimentare una persona nel cui cervello non ci sono neuroni, semplicemente per la fine naturale della vita che, come ha detto benissimo Englaro, non c'è. La medicina è cambiata e quindi ci pone di fronte a delle scelte. Noi in teoria potremmo andare avanti all'infinito. Esatto, e questo è con questa considerazione Io vi fermerei, è chiaro che le tematiche sono da approfondire, sono molto molto complicate. Intanto vi ringrazio perché credo che abbiamo dato al dibattito qualche spunto in più, sia Maria Dinolfi, sia Beppino Englaro, sia Giuseppe Remuzzi, di cui voglio ricordare il libro, leggetelo, La Scelta, è edito da Sperling & Kupfer, lo trovate in libreria, è scritto da Giuseppe Remuzzi, sicuramente darà qualche considerazione in più su questa tematica importante. 24 mattino. Abbiamo solo due minuti, ma voglio salutare il nostro Leonardo. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Uno ciao, di quelli Sandro. Che ci seguono, l'abbiamo svegliato, lo so. Leonardo, da dove ci segui tu? Da Santiago del Cile. Santiago del Cile, che ore sono? Qui sono quasi le 5 del mattino. Vabbè, insomma, io mi sveglio alle 5, quindi dai, ti abbiamo dato sì, la sveglia. Che ci fai, Leonardo, a Santiago del Cile? Allora, ma che bello! Sto facendo uno scambio di 6 mesi con la mia università. Ah, che è? Io studio a Copenaghen, in Danimarca. Beh, comunque tu quindi stai all'estero anche quando hai fatto, prima di fare lo scambio, dalla Danimarca al sì. Cile. Ho fatto la triennale a Udine, in economia aziendale, adesso sto facendo la specialistica in international business. Ma che bello. Copenaghen. Cioè, capite, da Udine, Copenaghen, Cile, capite cosa vuol dire aprire la mente al mondo? Leonardo, lo consigli a tutti quelli che hanno l'opportunità di farlo? Assolutamente sì, perché e soprattutto se si studiano materie come l'economia, è importante per imparare come si muovono i mercati, come si muovono le imprese, e soprattutto per aprire la mente, come dicevi tu. Cos'è la cosa più bella che hai scoperto in Cile, in questo paese un po' a noi sconosciuto? La natura è eccezionale, penso sia il più bel paese sudamericano dal punto di vista della natura. Ha di tutto, è il paese più lungo del mondo in latitudine, quindi ha di tutto, dal deserto alle montagne all'Antartide. Che bello. E quanti gradi ci sono? Adesso lì siete ovviamente invertiti, no? Cos'è? Sì, la notte diciamo fa freschetto, però durante il giorno sono 35 gradi. 35 gradi! E dacci un messaggio dalla Danimarca o dal Cile, quel che vuoi tu, agli italiani. E niente, di cercare di cambiare il nostro paese, perché abbiamo tante potenzialità, ma purtroppo non le stiamo esprimendo neanche al 10%. Neanche al 10%, Leonardo, che bello. Però lo prendiamo come stimolo e ti ringrazio davvero. Dispiace averti svegliato, ma insomma, vai in università no, a studiare. Niente. Ciao Leonardo, un grande abbraccio che arrivi a tutto il Cile, ovviamente. Noi ci sentiamo domattina alle 6:30. Grazie. Ciao.